Chiudetevi, chiudetevi! Sono larve di dolore, sono scheletri d'orrore, chi il mio dente abbandonò, chi il mio dente abbandonò. Sono larve di dolore, sono scheletri d'orrore, il mio dente abbandono, abbandono, il mio dente abbandono. Se di quelle qualche